appena uscito fuori che sua madre gli diceva: quando arrivi almeno telefona. Poi in mezzo alla strada si è voltato per vedere ferare la sua casa mentre nevica. Tra un'ora sono lì, prendo il treno, sono lì, arriviamo giusto lì che c'è ancora un po' di luce. Eccola lì la Jugoslavia, quanti alberi, come verde, ho qualcosa che mi piace. A vedere come corre, va sempre più lontano. Passa le foreste dell'Europa, i ponti, le case, fino alle linee della mano. Chissà chi era mio padre, chissà chi era mia madre, dimmelo. Sigarette americane, avessi almeno un po' di pane, soldi, puttane, sono libero. Piano, non si vede nessuno, andiamo via. Lascio un ponte sul fiume con migliaia di soldati ed alcuni carri armati. Passano il confine tra l'Austria e l'Ungheria. Il treno corre per l'Europa tra due ali di fascisti, vecchi, nuovi, misti. Poi sotto un cielo nucleare, mai visto irreale, passa un gruppo di montagne, siamo in Russia. E io che volevo telefonare, non ho niente da mangiare, come nevica. Teresa, sono qui, dentro un sogno. Sopra un treno e sono stanco, non lo so, mi stanno guardando, sono in tanti qui. Alla faccia le mani degli zingari, sono tanti, come il vento sono liberi, sono i pensieri della notte, tra le nuvole della notte.